5 e. Ascolta e completa. Se desideri partire, parti pure. Se desideri dormire, dormi pure. Se desideri proseguire, prosegui pure. Se desideri obbedire, obbedisci pure. Se desideri dimagrire, dimagrisci pure. Se desideri agire, agisci pure.